Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Bentrovati da Enzo Argante e il Traghettatore, Ferry Boat, l'edizione del weekend. Cominciamo subito col ricordarvi che domani, domenica, si corre la Milano City Marathon, che è organizzata da CESVI, Corriamo per un Sorriso. Al momento dell'iscrizione, vi ricordo, si tratta di pagare 150 euro per pettorali, spacchi gara e quant'altro presso il Marathon Village in Piazza Duomo. Quindi CESVI utilizzerà questa cifra in parte per la manifestazione, e 65 euro saranno invece utilizzati per il progetto Casa del Sorriso di Cape Town. Il World Watch Institute ha dedicato il suo ormai famoso rapporto annuale alla problematica dell'alimentazione. Il curatore italiano del State of the World 2011 è Gianfranco Bologna, che è anche direttore scientifico del WWF e che ci parla di questa edizione del rapporto. Oramai negli ultimi anni il World Watch Institute dedica il suo rapporto annuale, che è nato nell'84 ed è famoso in tutto il mondo perché riesce a fare un'analisi dei problemi planetari dal punto di vista dell'interconnessione di aspetti sociali, ambientali ed economici, li dedica a un tema specifico, e quest'anno il tema che è stato scelto è, tra virgolette, nutrire il pianeta. Ovviamente non si tratta di nutrire il pianeta, ma si tratta di nutrire la specie umana che sul pianeta c'è, quindi mettere in condizioni gli esseri umani di essere in grado di potersi sostentare dal punto di vista alimentare. È chiaro che partiamo subito con un paradosso che il World Watch sottolinea in maniera molto evidente fin dalle prime pagine del rapporto. Noi abbiamo un pianeta in cui 1 miliardo di persone circa è denutrito e paradossalmente 300 milioni sono ufficialmente obesi e circa 1 miliardo di persone è sovrappeso. E non solo, ma abbiamo dei meccanismi di utilizzo dei metodi dell'agricoltura che sono altamente industrializzati, fanno molto uso sia di fertilizzanti artificiali sia di altissime capacità di irrigazione, tanto che l'agricoltura è in assoluto l'attività produttiva che ha la maggiore quantità di utilizzo dell'acqua, il 70% a livello planetario, e quindi evidentemente abbiamo un modo di produrre il cibo e di alimentarci che ha purtroppo un flusso di energia e di materia prima molto elevato. Quindi questo rapporto cosa cerca di fare? Cerca di fare, come sempre fa il World Watch Institute, non solo un'analisi della situazione, ma soprattutto un'analisi delle proposte. E la cosa più interessante che emerge è che queste straordinarie innovazioni, che ormai sono presenti in tanti paesi del mondo, soprattutto nell'Africa subsahariana, e che riguardano i piccoli contadini, che non sono in molti casi neanche proprietari terrieri dei luoghi che gestiscono e governano dal punto di vista agricolo, sono abilissime nel riuscire a far sì che l'agricoltura possa produrre di più di quanto produce attualmente. Come? In mille modi: rendendo molto più fertile il suolo, evitando che vengano distrutte la vegetazione forestale, e ovviamente anche l'uso di leguminose che sono azoto fissatrici, quindi non fanno uso di fertilizzanti artificiali, e altre cose. Quindi, in parole povere, il messaggio che ci viene dal lavoro c'è: dove noi siamo in grado di imitare di più i flussi e i processi della natura, siamo in grado anche di avere un'agricoltura innovativa, capace di dare cibo alle persone e che non distrugge la base fondamentale dell'esistenza stessa, che è la ricchezza della biodiversità che abbiamo a disposizione. Chiarissimo e davvero interessante, grazie a Gianfranco Bologna. Farmers Market, parliamo di, quindi restiamo nel campo alimentare dell'agricoltura. Coldiretti Lombardia ha misurato, ha fatto una stima sul numero della spesa direttamente dal contadino, per intenderci, da 250.000 presenze nel 2010 alle 750.000 attuali, con un incremento del 200%, un segnale importante. Vi ringraziamo anche per averci seguito. Ferry Boat, @radio24.it, l'indirizzo a cui segnalare le vostre iniziative. Grazie ad Anita Panizza in redazione e a Valeria Bernardi in regia.